Ciao a tutti i compagni e le compagne che seguono Radio Silo. E facciamo una registrazione di questa puntata di Contrappunto perché, diciamo, è il 26 di marzo 2022. Diciamo, i soliti ignoti sono introdotti nello nostro spazio e hanno dato sfogo, diciamo, sulle pareti e alla loro squallida creatività. Noi abbiamo fatto un comunicato stampa, ringraziamo tutte quelle compagne e i compagni di Salerno che hanno espresso solidarietà con i compagni del centro sociale e niente, ora leggo il comunicato stampa, insomma, anche perché questa puntata la dedichiamo a questi nazisti, chiamate nazisti per bene, e ai loro seguaci. Però leggiamo il comunicato stampa. Allora, comunicato stampa del centro sociale Janassen. I soliti ignoti, presumibilmente nella giornata del 26/03/2022, data apposta nella scritta sulla parete interna del centro sociale, la parete, la scritta era proprio la data 26/03/2022, UA-RU e poi UOR. Questi si sono introdotti nel nostro centro sociale impunemente, hanno con bombolette spray dato sfogo sulle pareti alla loro squallida creatività. Non con svastiche, ma con scritte. Una ve l'abbiamo questa di prima, però ve la leggo, leggo il periodo completo. La scritta 26/03/2022, UARU WAR, che è l'acronimo di Ukrainian Army trattino Russia WAR, che è facilmente riconducibile al conflitto russo-ucraino, in particolar modo alle formazioni neonaziste ucraine. Tanto è vero, questo è un sito che chiunque lo può vedere, è un sito militare e paramilitare ucraino che fa elogio alle imprese eroiche dell'esercito ucraino, in particolar modo al battaglione Azov. Poi un'altra scritta, Papere Gay. Papere Gay, diciamo che abbiamo fatto un po' qualche ricerca, e questa Papere Gay, diciamo, è riconducibile ad una canzoncina che è qualcosa di terribile, perché diciamo è una canzoncina che ci sta un video che inizia con immagini bucoliche bellissime, il lago, la foresta, il verde, poi queste paperelle che vengono date da mangiare in modo bello e gentile. Tutto ad un tratto questa bucolica bellissima paradisiaca, diciamo, queste paradisiache immagini si interrompono e si scatena il putiferio con linguaggi che non lo ripeto, che è di un'omofobia e di una violenza inaudita, per poi riprendere quel tipo di canzoncina. Ma almeno da come sappiamo, questa canzoncina è addirittura ha proseliti nei bambini delle scuole elementari, e questa è la scritta Papere Gay. Poi ci sta la scritta con Qui sono stato io, o sono stato, poi non si capisce se c'è una virgoletta o stata io, e poi c'è un graffito strano. Diversamente dagli altri raids vandalici avvenuti in questi 29 anni, Noi non abbiamo registrato alcun danno materiale alle infrastrutture, tantomeno segni di forzatura agli ingressi, porte e finestre. Hanno portato a casa un bottino, questi soliti ignoti, 110 euro, tra le 110 e 120, anche perché il 40% era in monetine e stava in una cassettina. Hanno preso un microfono senza filo di una cassa che noi abbiamo acquistato per le iniziative pubbliche, per elevare le mezzi, rigeneratore, eccetera, eccetera, 3 dischi rigidi tranquillamente aperti con cacciaviti e il computer portatile dal valore di commerciale di 10 euro, però era funzionale per le nostre trasmissioni in diretta dal centro sociale. È chiaro che dalle scritte e anche da questo bottino il significato simbolico, quindi il messaggio di tale raid, specie con il furto del computer e anche con la scritta di rivendicazione, è chiaro che è riconducibile all'attuale conflitto militare russo-ucraino e formazione neonazista ucraina ed è strettamente collegato alle nostre posizioni contro la NATO, contro la fornitura di armi all'esercito ucraino da parte del governo Draghi. Il furto del computer, ribadendo valore commerciale manco 10 euro, usato prettamente per i programmi e le trasmissioni in diretta di Radio Asilo, rappresenta un chiaro attacco alle libertà di informazione e di pensiero di tutti coloro che non si riconoscono e non si attengono alla propaganda mediatica di guerra e alle scelte politiche del governo Draghi di sostegno economico militare all'esercito ucraino. Siamo sempre stati e saremo contro ogni guerra perché producono distruzioni nelle quali le principali vittime sono rappresentate dalla popolazione civile ed inerme. Le guerre hanno provocato e provocano tuttora danni, lutti e miserie non solo in Ucraina, ma nei territori palestinesi, curdi, nello Yemen, in Siria e in Afghanistan. E diciamo, le guerre hanno provocato in queste scene decine di milioni di profughi. Siamo totalmente contrari alla corsa frenetica al riarmo, così come la proposta di dare il 2% al nostro PIL da destinare alle armi e da finanziare la NATO. Perché lo pagheranno i disoccupati, i pensionati, i lavoratori, le donne, i precari? E perché mentre per la corsa al riarmo e per inviare armi all'esercito ucraino in poche ore si sono trovati soldi, al contrario per la sanità, per il lavoro, per la difesa ambientale, solo chiacchiere e bla bla bla bla, riproponendo quello che ha detto la titolare e la dirigente del movimento Freedom for Future. Siamo e saremo sempre per la libertà di informazione, così come per la difesa delle agibilità politiche e culturali, per le libertà di pensiero. Siamo contrari a finanziare le guerre e siamo per liberare l'Italia dal pericolo e dall'incubo del nucleare, sia civile che militare. Fuori l'Italia dalla NATO, fuori la NATO dall'Italia. Allora, questa trasmissione è dedicata a tutti quei nazisti ucraini considerati nazisti per bene. E diciamo, cominciamo con un nazista che ora almeno lo era, fino a quando era diventata presidente, almeno le sue stime per il nazismo lo aveva anche ufficialmente dichiarato, fino a quando è diventato presidente dell'Ucraina. E tra l'altro fra poco un canale di una televisione privata addirittura riproporrà quella serie televisiva in cui l'attuale presidente Zelensky recitava la parte, allora film, ora di fatto, diciamo, dell'Ucraina. Quindi avremo pure una serie su questa, sul presidente, su Zelensky. Allora, ecco perché nazista per bene. Diciamo, è chiaro che ora Zelensky è diventato un salvatore della patria, è dalla parte del bene, e diciamo, i paragoni è che diciamo lui si sta, come devo dire, è diventato una persona che addirittura paragonano lui, il battaglione Azov e la Pravi Sector alla resistenza antifascista durante la seconda guerra mondiale. Però lo stesso Zelensky, durante una video intervista, ammette di ammirare il nazista ucraino Stepan Bandera. Stepan Bandera era un nazista ucraino collaborazionista dei nazisti tedeschi, che fu messo nel 1944 da Hitler a capo di un governo fantoccio e l'organizzazione di terrorismo in Ucraina dopo la sconfitta della Germania. Uccise e fece uccidere polacchi ed ebrei a decine di migliaia. Nel 2015 il nuovo regime, tra virgolette, democratica dell'Ucraina ha abolito la festa del 9 maggio che celebrava la sconfitta del nazismo, mentre ha deciso di festeggiare il compleanno di Bandera come ricorrenza patriottica nazionale, facendo erigere oltre 40 monumenti in suo onore in tutta l'Ucraina. Allora, quindi il Zelensky era questa persona qua, e diciamo che quando Zelensky, diciamo, andando affermando che Bandera è un eroe per molte persone ucraine, è una situazione abbastanza inquietante. Però ecco, tutti i giornali, tutte le televisioni fanno, come devo dire, a gara, fanno di tutto per nascondere certi dettagli, perché come devo dire, l'importante è che si segua le direttive, quindi non solo un unico copione, ma le direttive della NATO, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America. Quindi come dire, e noi nelle nostre trasmissioni, anche nei nostri contributi cartacei sul sito, è inutile che ci ripetiamo, abbiamo fatto controinformazione sul battaglione Azov, abbiamo fatto controinformazione su che mo è diventato reggimento, non più battaglione, quindi inserito ufficialmente e ha una sua funzione, come devo dire, primaria, e da tutte le testimonianze che ora stanno iniziando ad uscire si vede come il battaglione Azov non era uno, diciamo, è un esercito, non è un, come devo dire, un insieme di idealisti nazisti eccetera eccetera, ma è proprio un esercito che è la punta di diamante dell'intero esercito ucraino. Vediamo che tant'è vero che anche da alcune informazioni ci sono addirittura dei nostri dei nazisti, nazifascisti italiani che sono andati, diciamo, a combattere nelle file del battaglione Azov, hanno affermato che gli armamenti che ha questo reggimento la Russia se le sogna, ma diciamo che ha armamenti così efficaci e così elevati che la Russia se le sogna. Che significa che in questi decenni gli americani e la NATO, non solo a fornire diciamo istruttori militari, ma a livello di armi sono di una quantità e di una qualità molto preoccupante. Se a questo poi aggiungiamo i miliardi di euro che saranno, che sono stati destinati e che saranno destinati, a che noi potremmo dire benissimo, ma a chi andranno questi soldi e queste armi e come verranno usate anche dopo. Però ecco la questione che, diciamo, si continua nella, come devo dire, nel disegnare in modo romantico i nazisti ucraini del battaglione Azov. E, è chiaro che, diciamo, questi nostri, diciamo, media, ma di tutta la dalla televisione pubblica a quelle private, media che proprio con la cultura e la propaganda di guerra, diciamo, che, come devo dire, questa disegno di romanticizzare e romantizzare questi personaggi molto loschi. Allora, io è un qualcosa che, diciamo, io volevo, come, per essere chiaro, questo per dire l'ultima, e leggo chiaro, rileggo un articolo di un giornale che parla chiaro del Fatto Quotidiano. Allora, diciamo, comincia così: vi abbiamo detto l'intervista su Repubblica a un capitano dell'Azov che legge e cita Kant: il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me, omettendo le fosse comuni sotto di lui, come dal rapporto OSCE del 2016, che l'indica come responsabile di uccisione di massa, occultamento di cadavere e torture. Ieri su Corsera c'era un bel ritratto del comandante reggimento Azov, maggiore Proipenko, ultranero della Dinamo Kiev, che Zelensky appena ha proclamato eroe dell'Ucraina. Insieme a questo, sabato sera è andato in onda su Rai 3 un elogio struggente di un altro soldato di Azov, il generale Vakeslav Ambrosky, Massimo Gramellini, campione dello storytelling glicemico, lo presenta così: soldato sanguinario che chiama orchi russi e ne ha già uccisi a grappoli senza pietà. Sta difendendo Odessa, ma sua figlia adolescente è rimasta a Mariupol, da dove racconta al papà dei bambini che stanno al freddo, al buio, che bevono l'acqua dei termosifoni e mangiano grana saracena, inzuppato con l'acqua sporca delle pozzanghe. E l'antica tecnica del chiaroscuro, la ferocia del primo fa risaltare l'innocenza dei secondi. Ma c'è un ma. Il terribile generale Ambrosky, dice sempre Gramellini, sottolineando la parola terribile per preparare il colpo di scena, ha ascoltato sua figlia in silenzio. In silenzio, come fanno i virili eroi classici. Anche se appunto cacciato male, ma Gramellina era presente a questa telefonata. Poi ha aperto la sua pagina Facebook e ha scritto una lettera ai russi che il conduttore solennemente legge per farvela breve. Ambrosky offre la sua vita in gamba di quei bambini di Mariupol. Questo, dice Gramellini, questo generale, un guerriero fanatico, un violento, un nazista per bene, diciamo, ma è disposto a sacrificare la sua vita e chissà quale torture gli farebbero prima di ucciderlo, per mettere in salvo quelle dei piccoli sopravvissuti di Mariupol. Il programma appunto si chiama Le Parole, proprio perché le parole sono importanti. Di far diventare un eroe, ecco, l'eroizzazione del simpatizzante nazista sarebbe completa, ma la musica cresce col pathos. Non è un uomo buono, gli ebrei lo definirebbero un giusto, sì, un Oscar Schindler. Anche questa blasfemia tocca, cioè il giornale dice, ci tocca sentire anche questa questa blasfemia, in cui dove il professore Orsini non può parlare dietro compenso perché le sue analisi geopolitiche sono troppo complesse e quindi filo Putin. possibile, direte voi, che il ragionamento sia così pedestre da far passare per giusto un nazista, pur tenere il punto contro il presunto figlio Putin. Sì, i giusti possono avere anche delle idee sbagliate, ma i gesti non li sbagliano mai, perché non sono sorti al richiamo dell'umanità. Gramellina ha completato la scuola dell'obbligo, dovrebbe sapere che Schindler non uccideva le persone, non le buttava nelle fosse comuni, le salvava, che il senso dell'onore, del vitalismo misto allo sprezzo della vita e all'esaltazione dei sacrifici sono marchi dell'ideologia nazifascista, che essere nazista non è un'idea sbagliata, ma un crimine condannato dalla storia, e che la glorificazione del gesto sacrificale che annulla l'ideologia mortifera è precisamente la vile tecnica manipolatoria dei fascisti esaltati. Peraltro il nazista di Azov, questo consesso di giovani kantiani che lottano per l'Ucraina, guidi le razze bianche del mondo in una crociata finale contro i popoli inferiori guidati dai semiti. Così proclama Bileschi, capo di Azov. Ha solo scritto un post, non si è consegnato ai russi in cambio della vita dei bambini. Chissà se lo farebbe per i bambini di popolo inferiore. Tutta questa musica emozionale, tutto questo gruppo di gola del conduttore, questa maschera retorica di morte per un post su Facebook, tutto, pur un'orrenda guerra fratricida, viene spiegata allo storytelling. L'apologia dei nazisti diventa storiella edificante, gradita al ceto medio che ingoia tutto sentendosi intriso di un alto senso morale. La chiosa di Gramellina è incredibile. Sarebbe più tranquillizzante pensare che ci sono solo i buoni e i cattivi, ma è proprio da quando la vita ci mette sotto pressione che ci spogliamo dei pregiudizi delle ideologie e scopriamo chi siamo davvero, simpatizzanti dei nazisti. Cioè, io l'ho letto così, scusatemi, ma quando io sghignazzavo sulla questione della figlia, che non sia fraintesa, insomma, cioè, non sghignazzavo sulla questione dei bambini, lungi da me, insomma, che stiamo scherzando, ma sghignazzavo sulla ipocrita logica, sull'ipocrita presentazione mediatica che in queste settimane stiamo assistendo, insomma, è una cosa vergognosa. E neanche a porsi un dubbio, scusatemi, ma se questi si rifanno al nazismo, se questi che, diciamo, sono non un'arma brancaleone, sono un vero esercito ed è un reggimento della punta, diciamo, di diamante dell'esercito ucraino, qualcuno può porre la domanda, scusate, ma i nostri soldi e 6 miliardi a chi li destiniamo? Basterebbe una domanda del genere, tanto è vero che molto, molto spesso quando qualcuno pone a questi direttori di queste diciamo talk show, di queste trasmissioni, pone la domanda Azov, vanno tutti in fibrillazione, vanno tutti in difficoltà. Allora, il problema è proprio una questione di buonsenso, è una questione di dove cavolo stiamo arrivando, dove si andrà, anche perché è bene dire che, diciamo, la vicenda ucraina, ora l'Ucraina, tra poco saranno i Balcani, dove le metodologie e i criteri sono uguali. Tra poco, come dire, ci saranno le elezioni in cui ci pare nel Kosovo, che, diciamo, dove i serbi non possono votare. Ci sono movimenti di truppe. Gli scenari di quell'altra fetta, diciamo, della balcanizzazione dei paesi balcani, ci sta, diciamo, tra la Turchia, perché sono regioni che dopo la distruzione della Jugoslavia, diciamo, sono determinate tutta una serie diciamo, di state, di aree geografiche che si basano alcuni su stati identitari religiosi, altri su, diciamo, voglie di, come devo dire, di Occidente, per cui stanno, diciamo, nella NATO. E, diciamo, nello stesso tempo ci sono i serbi che, diciamo, da cui hanno rapporti con la Russia. Quindi ci sono degli scenari in cui la questione ucraina, se non la risolve in termini politici, la si risolve in termini politici, rischia di diventare un ulteriore detonatore per altre situazioni di instabilità. E poi, paradossalmente, che stanno alle nostre porte, ai nostri confini. Allora la Jugoslavia sta di fronte cioè proprio è una nostra, l'ex Jugoslavia, perdono, è la nostra dirimpettaia. E allora il ragionamento è proprio questo. Allora che dovremmo dire? Che questi che sono venuti, che si sono introdotti nel nostro centro sociale, che in un modo impunito, proprio se ne sono visti bene, tranquillamente, non trovano, non hanno fatto, non abbiamo visto nessuno segno di infrazione, ma questi soliti ignoti, che hanno fatto delle scritte di un certo tipo, inneggiando la guerra e la questione omofoba, è legata a questa storia della papera gay, come li dobbiamo considerare? Seguaci per bene di nazisti, per bene, che sono diffusi, diciamo, quanti fascisti e nazisti per bene sono disseminati per la nostra nazione italiota con l'elmetto guerrafondaio e che incita alla guerra e che, diciamo, e fa della propaganda di guerra, diciamo, proprio la quotidiana forma del proprio esistere. Siamo passati da uno stato d'emergenza sanitario, siamo passati direttamente allo stato d'emergenza militare, con tutto ciò che la parola stato emergenza militare ne deriverà. Perché non è soltanto la questione di raccogliere i fondi, ci mancherebbe altro sull'assistenza umanitaria, ma cosa significherà nei fatti uno stato d'emergenza di guerra nella nostra nazione italiota? Significherà che tutto ciò, tutte le decisioni economiche, finanziarie che verranno prese nella nostra nazione andranno sotto questa gestione, saranno, diciamo, debbono andare in linea con questo stato di emergenza. Per cui dalle scelte, diciamo, di carattere energetico, dai 15 centrali a carbone che dovevano chiudere il 2025, anzi addirittura debbono aumentare la produzione. Allora, così come la questione delle trivellazioni, così come l'aumento delle trivellazioni, così come anche la questione che tutti i soldi destinati all'ambiente, al lavoro, saranno sacrificati tra i soldi da destinare al 2% del nostro prodotto interno lordo, a queste dovremo pagare in dollari i nostri approvvigionamenti, diciamo, energetici, quindi pagare in dollari, perché quindi dovremo pagare l'America e l'Israele, che a sua volta continua ad uccidere palestinesi e bambini, soltanto che quando si ribellano questi, i giovani palestinesi o terroristi. Se i giovani nazisti ucraini si ribellano, sono eroi. Allora ecco perché, diciamo, siamo in una fase molto ma molto delicata, siamo in una fase delicatissima. E in un modo incosciente, cioè ogni giorno che passa rimaniamo stupefatti da questi democratici garantisti del cavolo, che, diciamo, proprio in un modo senza un minimo dubbio, qua non è che dice, senza un minimo dubbio, diciamo, si pone il problema, ma se proseguiamo così dove arriveremo? Allora, è come ha fatto bene Iorit quando ha fatto il murales a Napoli su Dostoevskij, a cui Putin lo ha riconosciuto. Quando Iorit ha detto, ho fatto più io nel colloquiare con Putin che il governo italiano. E tanto è vero che lui stava facendo la conta nel passare dei giorni, fino a che, diciamo, contava 3-2 ogni giorno che mancavano ad essere considerato filo putiniano. Allora, questa è la questione. E guardate che molto quello che è successo al nostro centro sociale non deve passare. Cioè, non si tratta della solita. Noi in questi 29 anni, guardate, a maggio saremo nel 30° anno, se tutto va bene. Allora, questi 9 anni ne abbiamo visti di raids, di fascisti, di furti, ne contiamo almeno 13. Ma questa, diciamo, è particolare. È qualcosa di, proprio perché è particolare, lo rende più inquietante. Lo rende inquietante perché impunemente sono entrati. Noi non ce ne eravamo accorti, se non, come devo dire, nelle scritte che poi, ecco, avevo dimenticato. Dove sono andate? Dove le hanno fatte? Nella stanza dove stiamo mettendo in cantiere il centro di documentazione internazionale ed internazionalista. Guarda caso, avevano tutto il tempo per poter far redarsi proprio alle peggio orde, come fanno tutte le orde barbariche, strappa manifeste, fare le scritte sui murales, distruggere l'impianto, rubarsi altre cose. Non voglio fare un elogio, cioè un invito diciamo ai Mariuli, venite a rubare, perché ci sono un po' di cose da rubare. Però dove hanno colpito? Hanno colpito nel centro, nella stanza del centro di documentazione di solidarietà internazionale, l'internazionalista, hanno fatto delle scritte riferendosi alla questione del conflitto russo-ucraino, hanno rubato il computer ed il microfono per dire voi non dovete parlare, neanche dovete fare assemblee. E come è proprio il concetto inquietante, è proprio questo. Cioè, questi impunemente hanno, con i giravitini, sicuramente erano più di uno, più di due forse, ma la cosa che ci ha colpito è che, diciamo, avevano una conoscenza non solo di come si fanno le bombolette. Guardate, c'è stato un graffito definito strano, che non ha nessun segno, grande, cioè che ha coperto metà parete, ma di significati non visibili, non chiari, ma con una, diciamo, un uso della bomboletta così, cioè proprio senza sbavature, senza diciamo niente di che facesse vedere, cioè niente scritte interrotte per poi riprendersi, no, con una mano ho fatto un'unica scritta, come se avesse dietro uno stambino, anzi uno stambone, perché vista la grandezza di questo graffito. Allora, sono tutte piccole particolari, tutti piccoli particolari, molto ma molto inquietanti. Hanno aperto con questi cacciavitini, 2, 3, forse 4 dischi rigidi per prelevare che cosa? Buh! Allora, è inquietante sia per il significato, ma sia per il fatto che dicono, cioè al di là della minaccia, per dire noi, proprio perché siamo i soliti ignoti, entriamo dove vogliamo, ci siamo quando vogliamo. Infatti hanno bevuto pure un cocktail e hanno lasciato in piena mostra un bicchiere di un cocktail, sarebbe gin lemon, insomma. E questa è la faccenda. Che dire, cari compagni, diciamo, La situazione è inquietante. Ecco perché noi dobbiamo sempre mantenere la massima sorveglianza, vigilanza e vedere di riproporre con più forza mobilitazione contro la NATO, contro il nucleare. E che i soldi debbano andare per il lavoro, per i disoccupati, per la sanità pubblica, per l'assunzione a tempo indeterminato di professori, insegnanti, tutto il mondo della scuola, dalle scuole elementari alle scuole medie superiori. Cioè, perché dare più soldi agli operari, dare più soldi per il lavoro, per la sanità, per l'ambiente, significa ridurre i soldi da destinare alle armi, che sono le armi e al nucleare, militare e civile. Cari compagne e compagni, fuori l'Italia dalla NATO, fuori la NATO dall'Italia. Alla prossima.